Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, siamo qui. Sono le 8 e 20 minuti. Buongiorno. Questo 19 maggio. Buongiorno Alessandro. C'è qualche novità per l'aereo? Sì, dobbiamo dire questo, magari voi siete svegliati, non avete seguito, ma purtroppo c'è da segnalare che da questa mattina sono perse le tracce di un aereo della Egyptair da Parigi al Cairo. Ci sono 66 persone a bordo, non ci sono italiani, questo lo diciamo per la cronaca, ma ci sono francesi, britannici, canadesi, algerini, sudanesi, del Chad, insomma. E ovviamente non è escluso nulla, nel senso che il ministro dell'interno Val francese dice dovrebbe essere filato giù nel Mediterraneo, perché mancavano pochi minuti insomma all'arrivo. Era entrato nello spazio egiziano. Nessun SOS, nessun messaggio di qualcosa che non funzionasse, è sparito dai radar. Anzi, 10 minuti prima di sparire, l'ultimo contatto e non è stato segnalato alcun allarme. Ora, i dati e gli elementi che ci sono questi. È chiaro che si pensa sempre a tutto, non è esclusa nessuna ipotesi quando si dice così, vuol dire. E vedremo. Staremo a capire. Caro Oscar, ci saranno i santi anche oggi? Sono i santi anche oggi, Sant'Ivo, San Pietro Celestino, quello che poi sarà Celestino V, che farà il gran rifiuto, Sant'Adolfo, San Partenio, San Dunstano, Sant'Evonio, ma ce n'è uno in particolare che è il santo di ieri sera, perché quando il Presidente del Consiglio ha fatto questa sua... Oramai lui va in prima serata, perché sfida tanto, leva Porro, leva chi non la pensa come lui dalla Rai, quindi ci si mette lui a fare con i suoi messaggi e quindi si è affidato a uno dei santi di oggi, che è San Crispino. Se ti faccio il promessino tu mi dai il tuo votino, ecco, questo è il fondo del suo... Non capivo da Crispino come mai si potesse il promessino col votino. Quindi, cari amici in ascolto, ci taglia le tasse, tutto ceto medio, sparisce Equitalia, non vuole che si dicano i risultati del primo trimestre sul lavoro di ieri, perché dice che sono balle, cioè siccome c'è il segno meno non bisogna parlarne. Un Presidente del Consiglio in grande forma. Vabbè, insomma, non ti è piaciuto mai seguito questo Matteo risponde, perché è una nuova modalità, cioè da un po' di tempo, no? Va su Facebook e Twitter, fa queste dirette, risponde ai cittadini. Matteo risponde, sì. Ha chiamato così Matteo risponde, sì. Ma sai perché è andato in prima serata? Perché dice di solito lo faccio di giorno, ma questa volta lo faccio per coloro che lavorano. Che poi in prima serata, insomma, bisognava collegarsi da qualche parte, cioè non era in TV, su certo Facebook. Appunto, è una sfida, la prima serata ha un palinsesto alternativo. Escono oggi dati Auditel su Matteo risponde. Ma certo che sì, viene fatto per questo. Tanto ieri sera lo sanno tutti che in realtà di talk televisivi con cui si era messo in diretta concorrenza c'era solo quello di Paragone, l'ha scelto apposta questo giorno. Quindi, come ovvio, sì. Anche la Rai, che è un po' tardiva, dai, nel chiudere il programma di Nicola Porro, è un po' tardiva, sono passati tanti mesi dalle nomine, ha bisogno di una svegliata, la concorrenza diretta del Presidente del Consiglio, che taglia le tasse, quindi contraddicendo il programma del governo che dicevano che l'IRPEF non si tocca prima del 2018, no, taglia le tasse e subito, abolisce Equitalia, poi naturalmente uno apre la stampa e trova il ministro dell'economia che dice no, ma perché parlare, perché mi fate domande su questo, ma non c'è niente ancora, è tutto presto. Padoan, intervistato sulla stampa, dice è prematuro, visto che ci hanno detto un 8% del deficit. Presidente del Consiglio, visto che va in televisione ad annunciare a tutti che l'ha già fatto. No, l'ha già fatto, ha detto lo faremo adesso. Dattelo per fatto, cioè, cari italiani, è come cosa fatta. Non ti piace insomma questo no, Renzi? No, rido, questo non mi piace, magari, sai, poi dici che promettono. Ma infatti dico, aboliamo Equitalia, ho detto troverò oggi un Oscar Giannino in gran polvere. Sentilo qua, Renzi su Equitalia. Equitalia non arriva al 2018, ho detto Oscar Giannino sarà contentissimo. Come no. Ecco, qui diamo una notizia, dai. La diamo la notizia, ma sì che la diamo. Noi stiamo riorganizzando le agenzie. Ve la dico così, noi stiamo riorganizzando tutto il sistema del rapporto tra cittadino e pubblico amministratore. Dove voglio arrivare? Secondo me al 2018 Equitalia non ci arriva mica. al 2018 Equitalia non ci arriva mica. Ora ovviamente voglio tranquillizzare i cittadini, non vuol dire che nessuno vi chiederà più le tasse, eh? Tranquillizzare, no. Se dici così, no, non li tranquillizzi, no, perché, per niente. No, perché qualcuno magari lo interpreta a dire: non c'è più Equitalia, non si pagano più le tasse. Non è proprio che funziona così. Certo, manca fino a in questo... assenza di un progetto concreto non so cosa dire, sono gli annunci che mi fanno oramai ridere a crepapelle, perché io oramai Berlusconi era criticato perché era un venditore, ma si sono superati tutti i record oramai. Guarda Oscar, tra un attimo magari poi parliamo dell'informazione, perché tu hai detto Nicola Porro. Io devo dire, cioè, quando ho visto Red Ronnie apparire da Nicola Porro a parlare di vaccini, dico: ma una trasmissione non si deve mai chiudere, perché si deve chiudere secondo me se va bene o se va male una trasmissione. Non certo. Però certo, è anche però la Brigliadori. Esatto, aver visto Red Ronnie e Eleonora Brigliadori discettare di scienza, questo mi ha particolarmente infastidito. Ma dell'informazione se vuoi parliamo tra un attimo. Però ti voglio far sentire ancora Renzi, sempre sulle tasse. Dice che è il governo che ha ridotto più le tasse. Sentite. Ma no, dai, non ridere, ascolta. Ma quando vado in pubblico e dico: abbiamo ridotto le tasse, ma anche quando vado a cena con i miei amici, quando torno a casa, mi guardano e fanno: sì, sì, avrai anche ridotto le tasse, però non ce ne siamo accorti. 16 giugno non pagate più l'IMU e la TASI. E questa è una. Il canone RAI era 113, adesso è 100 euro. Chi sta sotto i 1.500 euro? 80 euro in più al mese. Il costo del lavoro è stato detratto, l'IRAP, costo del lavoro, non si paga più. Se siete agricoltori, IMU e IRAP agricola non si paga più. Poi ci sono i famosi incentivi sul lavoro, e però la gente ci dice: Matteo, non si vede. Ecco, dobbiamo trovare un modo per spiegare meglio le misure fatte. Noi dobbiamo andare nella direzione di dare di più una mano al ceto medio e alle famiglie. Oscar ride. Ma Oscar ride. Sono i numeri del MEF che dicono che la pressione fiscale è bloccata al 43,5%. Li aboliranno anche le serie storiche della contabilità nazionale. Ha fatto quelle cose, certo. Dopodiché ha aumentato la pressione fiscale, le aliquote sugli impieghi finanziari, ha aumentato le aliquote e quindi la pressione fiscale sui fondi pensioni, ha aumentato la pressione fiscale e le aliquote sulle casse previdenziali private. Quanti minuti mi dai per andare avanti? No, è che uno può dire solo quello che ha levato, dovrebbe anche dire quello che ha messo in più, perché la pressione fiscale è rimasta uguale. Ma lui stesso è partito dal paradosso dicendo: quando vado dai miei amici dicono. Qui c'è la questione sempre solita: se vi tolgono le tasse centrali e poi magari aumentano l'IRPEF regionale, aumentano i balzelli comunali perché sono i comuni non hanno. Ma... cioè, alla fine non dovrebbe essere una cosa complicata se ogni famiglia alla fine dell'anno si mettesse lì tenendo i conti a dire: ok, alla fine dell'anno vediamo, ho speso di più di tasse rispetto all'anno scorso o ho speso di meno. Certo. Cioè gli italiani potrebbero farlo in ognuno singolarmente alla fine dell'anno in dieci minuti tenendo che il conto. Si spiega perché se il Presidente del Consiglio continua a dire che lui le ha abbassate, gli dico: ma dove? Qua? Quindi perché io, lo dici? Io inviterei questo agli italiani: fatelo alla fine dell'anno, tenete i conti, alla fine fate una somma banale e vedete se avete speso di più o se avete speso di meno. Se avete speso di meno vuol dire che queste tasse sono diminuite. E segnalatecelo, perché a quel punto vuol dire che anche la contabilità nazionale mente perché non ne tiene conto. Sì, bisogna stare attenti anche solo alla percezione, quello che dice: ma come, mi è appena arrivata da pagare la bolletta? No, la percezione questo... rifacciamoci a quello che Compagnoncelli ieri abbiamo detto, fidarsi alla percezione è sbagliato, ma ripeto, i dati del MEF, del ministero, dicono che non è come dice lui, e quindi io mi rifaccio a quelli, sai. Tra l'altro, appunto, Padoan, intervistato oggi da Alessandro Barbera, di fronte alla domanda tagliare le tasse, dice: al momento è prematuro, perché questo ce lo chiede l'Europa, caro Oscar. L'Europa ha detto: va bene, vi diamo un po' di flessibilità, però è chiaro che a ottobre rivediamo un po' i conti pubblici, cioè l'Italia ha promesso di fare qualcosa. L'Italia resta un osservato speciale. Esatto, un osservato speciale. O vogliamo fare come il Corriere della Sera, che un altro giornale che con mi sto stupefacendo sempre di più, si sta passin passino adeguando all'idea un po' di questo EIAR, di fondo l'informazione, che dice: adesso l'Unione Europea intende addirittura influenzare l'esito del referendum istituzionale. Ma ti pare? Cioè, l'Unione Europea ha un calendario di controlli che fa sulla finanza pubblica. Se noi vogliamo fare il referendum, benissimo, a ottobre, l'Unione Europea va da d'altro. Noi restiamo un osservato speciale perché abbiamo un debito pubblico che continua a salire, cari ascoltatori. O dire questa amara verità, sei diventato un attentato a, a non so che cosa. Sul debito pubblico, caro Oscar, Padoan parla anche di quello e sì, dice: continueremo a fare ciò che è necessario. Stiamo privatizzando l'ENAV. Resta l'ipotesi di vendere una nuova tranche di Poste, parte del patrimonio immobiliare, e abbiamo fatto il decreto propedeutico alla messa sul mercato di Ferrovie. Ferrovie era stato annunciato al mercato l'anno scorso, capito? E non lo hanno fatto. Cosa vuoi che ti dica? Le promesse sono un conto, quello che viene fatto è un altro. Io quello che registro è che Padoan ha detto anche il fatto di fermare la crescita dell'IVA, le clausole di salvaguardia, dice: abbiamo preso un impegno con il paese. Sì, con il paese. E quindi lo, e giustamente l'Europa dice: bene, fateci capire, visto come? Che già dal deficit 2017, che era 0,3 l'obiettivo di contenimento, quando nacque questo governo, caro Matteo Renzi, del tuo governo, tu mettesti la tua firma sotto un documento che è ancora sul sito del MEF che diceva 2017, cari italiani, il deficit è 0,3, invece adesso ottieni l'1,9, cioè quindi ottieni 26 miliardi di deficit in più, caro Presidente del Consiglio. Eppure in quei 26 miliardi non ci rientra come non fai l'aumento di 15 miliardi dell'IVA, e quindi l'Unione Europea ci dice: e vi crediamo sulla parola, però fateci capire perché i conti non tornano ancora. Ci avete detto che volete fare cose in più, non che concentrate il deficit in più che vi diamo per la copertura del punto di PIL in più di IVA che dovrebbe scattare. Ecco tutto qua. Allora, Giorgio ci chiama da Modena. Buongiorno, Giorgio. Buongiorno a voi. Guarda, io volevo fare una battuta: se c'è qualcuno che non arriva al 2018, è Renzi, non è l'equità. Dice. Perché, ma assolutamente, a ottobre salta come un birillo perché ne abbiamo tutti i cosiddetti pieni, non se ne può più di questo pifferraio, di questo toscanello che non è assolutamente un sigaro, ma è un personaggio messo lì non si sa da chi. Dobbiamo ritornare al voto, non se ne può più. È una palla. Giorgio, qui il referendum è un po' lo snodo. Adesso non vogliamo anche noi personalizzare, ma ormai è chiaro che è stato personalizzato, cioè sarà un voto pro o contro Renzi. E questo, la cosa, lo dico, mi intristisce tantissimo, perché bisogna votare invece su una cosa importante, su riforme costituzionali. Ma per lui non c'è niente più importante che la sua permanenza. Quindi. Per lei, Giorgio da Modena, evidentemente dice: salta come un birillo. Evidentemente lei pensa che vincano i no, quindi nella maniera più assoluta vinceranno i no. E va bene, teniamo questo suo pronostico e poi vedremo a ottobre. Però la cosa che è anche interessante è vedere come nel PD, chi fino a ieri dipingeva Renzi come una specie di nemico pubblico numero uno nella campagna delle Trivelle, il governatore della Puglia ha usato toni durissimi parlando di un presidente così, si è allato con il peggio dell'Italia, diceva, ha portato nel PD. Adesso però è adesso sopravvenuto il patto del Panzerotto. Panzerotto. Che nome il patto del Panzerotto, si sono rivisti, insomma. E adesso dice: no, Renzi, tutto bene, tutto benissimo. Vabbè, si può litigare e andare d'accordo. Come no? Come no? No, vabbè, devo dare un aggiornamento, Oscar, dalle agenzie riguardo all'aereo che è scomparso. Le autorità egiziane hanno fatto sapere che il contatto radar con l'aereo Egyptair, scomparso la notte scorsa, è stato a 280 km dalla costa egiziana, alle 2:30 ora locale. Quindi alle 2:30 ora locale, 280 km dalla costa, e sono perse le tracce di questo aereo. Quindi non era uno spazio aereo, era uno spazio aereo ancora internazionale. Se sono 280 km dalla costa egiziana. Questo è successo lì, l'ultimo contatto con questo aereo. Dovremmo dire anche qualcosa di Marco Pannella, caro Oscar, sì, perché purtroppo i giornali raccontano che le sue condizioni sono peggiorate, è stato portato in clinica e sedato, i medici dicono non c'è speranza, insomma. Quindi immagino che, insomma, non sarà ancora lunga la vita di Marco Pannella. Si scateneranno naturalmente il giorno dopo tutti i tributi a un uomo di soddisfazione politica. In realtà, malgrado tutto il suo impegno, ne ha avuto poco, e che è stato trattato più come una specie di matto, giullare, non troppo pericoloso, ma insomma, a cui guardare sorridendo per le sue battaglie, no? Sì. Poi abbiamo scoperto dopo che invece non aver dato retta a molti delle sue campagne, delle sue proposte di riforma e così via. Alla fine arrivano i matti veri, invece, perché è chiaro che quando la gente perde ogni fiducia sulle istituzioni si va poi ai populismi di pancia pesanti. Io penso che purtroppo leggeremo troppe lodi tardive invece che apprezzamenti preventivi. È un po' lo sport italiano. È un po' lo sport italiano. Sì, però nell'impegno caso di Pannella, Pannella vale 100 volte di più. Allora, sì. Un altro aggiornamento, poi c'è un ascoltatore. Il pilota del aereo Egyptair con 66 persone a bordo, scrivono le agenzie, ha lanciato una richiesta di aiuto prima dell'interruzione dei contratti con i radar. Questo secondo la compagnia aerea egiziana. Quindi, insomma, così si fa a presupporre l'idea di un problema. Richiesta d'aiuto, non si capisce di che tipo. No, perché non è c'è scritto segnalazione di un guasto. Comunque, esatto. Nell'arco di qualche tempo si saprà. Insomma, l'essenziale, speriamo, io non è che tifi per l'incidente tecnico, però meglio un incidente tecnico piuttosto che apprendere che sia o un attentato o qualche aereo militare da quelle parti, ne girano parecchi, diverse nazionalità, che è impegnato in qualche cosa, ha tirato un mese. Ecco, i punti veri sono questi due. Se è un incidente tecnico, ohimè, si possono allargare le braccia. Se ci sono circostanze peggiori dovute al terrorismo o al confronto militare in atto sullo scacchiere medio orientale, è molto peggio. Molto peggio. Roberto ci chiama da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Premesso che sono anch'io della compagnia del Birillo. Sì. Volevo fare una domanda tecnica. La compagnia del Birillo non è male. Del Birillo, si faccia la domanda. C'è la compagnia dell'Anello e quella del Birillo. Vabbè. Senta, la domanda è questa per Giannino. Mi è venuto un dubbio a proposito di Equitalia. Quando uno paga una cartella Equitalia con delle sanzioni e poi fa una dilazione per pagarle più tempo, Equitalia versa tutto l'importo nelle casse dello Stato o lo Stato si piglia le sanzioni più gli interessi? No, Equitalia, diciamo, è legata nel suo patto concessionario, per così dire, a un monte di aggi che ovviamente quando lei va a dilazionare anche le sanzioni cresce, quindi Equitalia da questo punto di vista funziona così nei suoi rapporti di incasso nei confronti dello Stato. Ma questa domanda è relativa a una curiosità perché gli sta capitando o una curiosità di che tipo? Mi è capitato, allora mi è venuta la curiosità di capire se quando io faccio la dilazione è come con una finanziaria, che la finanziaria versa tutto il capitale e le multe a chi... No, lei stava contribuendo con la sua dilazione a qualche ulteriore incasso dell'ente, ha detto alla riscossione. Sì, diciamo. No, comunque la ringraziamo Roberto anche per la domanda tecnica. Dobbiamo andare in pubblicità, poi vogliamo approfondire con un ospite un tema che è tornato prepotentemente alla ribalta, caro Oscar, cioè nel giro di 48 ore sono state uccise due donne da parte di due uomini. Ohimè. Si chiamano femminicidi. Allora parleremo con una esperta per cercare di capire anche, siccome mi ha molto colpito, nell'ultimo caso quello che ha ucciso la propria moglie o la fidanzata poi ha detto: mi è partito l'embolo. Questa è, mi è partito l'embolo, cioè capito, ha ucciso una persona. Nell'altro caso di 48 ore fa invece è difficile sostenerlo, visto che chiedeva consigli pubblici di dove colpirla col coltello, sì, no, per è uccidere. Quello lì appunto chiedeva addirittura agli amici dove devo accoltellare per uccidere sul colpo. Non mi pare che gli sia partito l'embolo, no? Sì. No, quello è quello di ieri, ma insomma, ecco. Diciamo che capire anche dove ci sono delle antenne dritte per cercare di fermare gli uomini prima che... Perché mentre di solito queste, come è giusto, è inevitabile, questi argomenti delle violenze familiari, di cui quasi sempre sono protagonisti gli uomini, vengono affrontate e tematizzate dal punto di vista della donna, cioè come si fa a rendere più facile dal punto di vista psicologico e anche dal punto di vista concreto per una donna che è progressivamente vittima di episodi di pressione sempre maggiore, poi di violenza che possono sfociare nella sua morte violenta, a indurla a segnalarlo contando sul fatto che resti riservato ma che qualcuno lo sappia e gli dia buoni consigli. E questa è la modalità con cui di solito si affronta l'argomento. Ma la questione è: come si fa per l'uomo? Mm-hmm. Cioè, se io spero di sì, se ci sia chi capisce che sta proprio perdendo il controllo, il tipo che chiedeva aiuto agli amici, ditemi dove la devo colpire, era così, no? Fermato? Allora, è possibile che bisogna rassegnarsi al fatto che a quel punto la sua evoluzione porti per forza l'assassino senza intervenire sull'uomo? Questa è un po' la faccenda. E tra poco vi daremo qualche risposta, spero. State ascoltando un programma offerto da SailPost, la nuova posta italiana. Scopri di più su sailpost.it. Allora, caro Oscar, eccoci qua. Ieri I carabinieri hanno arrestato Arturo Saraceno, che aveva ucciso poco prima Deborah Fuso, la fidanzata. Sai cosa ha detto quando l'hanno preso? Stavo tagliando il salame e mi è partito un embolo. E l'ho coltellata. E 48 ore prima, invece, Mattia Di Teodoro aveva ucciso la moglie Michela Noli, dopo una relazione finita, e qui aveva per ore chiesto anche consigli agli amici, ma dove devo colpirla meglio per ammazzarla sul colpo? Insomma, uomini che ammazzano le donne, ce ne sono purtroppo tanti. Troppi. Salutiamo Francesca Garbarino. Francesca Garbarino è vicepresidente del CIMP, un'associazione che gestisce progetti di trattamento per autori di reati violenti. Buongiorno Garbarino e benvenuta. Sì, buongiorno. CPM, veramente. CPM. Sono troppi, sono tanti. Statisticamente quanti sono? Ci sono anche dei numeri? Ma sì, statisticamente possiamo dire che gli omicidi sono in realtà non sono in calo, gli omicidi, cioè in generale c'è un calo degli omicidi, ma quello che rimane costante è quello è il numero dei femminicidi, che sono appunto sono tanti uomini che appunto arrivano a gesti di questo tipo. Ma si possono fermare gli uomini? Perché voglio dire, voi trattate, avete in cura, avete a che fare con questo tipo di storia. La domanda è se si può intervenire. Se si può intervenire. Si può intervenire, si deve intervenire, è importante che sempre di più lo si faccia e si chieda aiuto. Questo è importante, che le persone direttamente coinvolte chiedano aiuto. Questa però è la parte più difficile, nel senso che proprio perché sono persone in difficoltà, hanno difficoltà a vederle le loro stesse difficoltà. E quindi è importante anche che vengano aiutati a farlo. Quindi appunto nel caso di specie, segnali erano stati dati, è importante che questi segnali vengano ascoltati, perché si tratta di persone che apparentemente mostrano appunto un aspetto di forza e aggressività proprio in fondo per compensare quelle che sono delle grosse fragilità. Sono persone che hanno delle difficoltà enormi a entrare in contatto con appunto aspetti emotivi dolorosi, ecco. Quindi sì, il problema è capire come fermarli, perché Oscar qua si è sempre parlato, cioè ad esempio in questo caso a me è colpito di cronaca di due giorni fa, di fronte ai messaggi eccetera, che fare? Cioè che fare di fronte ai messaggi di uno che dice io adesso io penso, Alessandro, che ci sia bisogno di una questione, cioè ripeto, noi ci siamo occupati per anni del fatto che sia reso più agevole e meno colpevolizzante per le donne segnalare l'escalation di vittime a cui lo sottopone il compagno, il marito eccetera eccetera. Per rendere diciamo un fenomeno meno grave dal punto di vista del peso sociale, che prima era fortissimo nella tradizione italiana, l'impostazione tradizionale della famiglia, il ruolo della donna eccetera eccetera, che impediva di poter dire oh, questo ha iniziato, prima mi menava, adesso mi picchiano, ma il problema è che manca l'aspetto maschile. Cioè Alessandro, la risposta alla tua domanda è: noi come uomini dovremmo impegnarci quando un amico inizia a apparirci in preda a una chiara spirale violenta, noi dovremmo essere pronti a denunciarlo. È la domanda che ci facevamo prima, mentre interrompevamo la trasmissione, era questa. Lo faremmo? Esatto. E la risposta purtroppo è che 999 volte su 1000 ancora oggi noi non lo facciamo. Cioè, capisce Garbarino, il problema, lo so che paradossalmente è da spostare anche in casi come quello di 48 ore fa a Firenze, sugli uomini più che sulle donne. Cioè investe anche noi uomini la cerchia di persone che forse sanno che la persona Anche perché nell'80% dei casi l'uxoricidio ha preceduto da episodi appunto di minacce, maltrattamenti, atti persecutori, quindi tendenzialmente dei segnali precursori si possono vedere appunto. Non è facile rispondere, nel senso che sicuramente uno dei primi aspetti, appunto, il fattore di rischio fondamentale sia per le vittime che per gli autori di reato è l'isolamento, per cui è importante che queste persone siano sostenute, che ci sia appunto un contesto relazionale che li ascolta e che appunto abbia poi una presa anche affettiva per favorire il fatto che queste persone si facciano aiutare. Sì. E dopodiché è importante inviarle appunto a una, in un luogo dove possano essere aiutate. Questo deve essere fatto, lo devono fare a livello volontario oppure possono, perché questo è il punto fondamentale. Molte persone negano di essere violente, ma no, non è vero, o gli ho dato uno schiaffo, ma no. E poi si arriva al mio partito l'embolo, e dal mio partito l'embolo si arriva un omicidio, capisce? Cioè, non è che... Come dicevo, sono persone che faticano a vedere, a sopportare dolore ed emozioni appunto negative, per cui per esempio, non so, come dire, ad esempio l'elaborazione del lutto nella specie derivante da una separazione, ad esempio, richiede un lavoro, e invece queste persone non sono in grado di farlo, quindi e tendono quindi a spostare all'esterno, e quindi a dare la colpa alle vittime tra virgolette. Sì. Quindi la responsabilità è sempre della donna che li ha lasciati. Sì, però c'è un problema anche serio, Oscar, perché la domanda che arriva da un ascoltatore e che arriva sempre in questi casi è: ma cosa succede se poi lo denunci? Nulla. Allora, non è vero che non succede nulla, però è anche vero che sono sempre più le storie, le leggiamo, di persone che hanno già denunciato e che magari dopo varie denunce, a volte inascoltate, a volte di fronte alle forze dell'ordine. È vero che abbiamo fatto la legge, però molte forze dell'ordine quando non ce la fanno, perché dicono, poi magari hanno di cose interessanti da ma fare. Ma cosa possiamo fare? Alessandro, sono d'accordo, forse in molti casi non avverrebbe nulla tale da evitare l'escalation e poi la morte, l'assassinio, però forse in taluni casi sì. E quello che mi interessa dire è che c'è un problema culturale tra noi uomini, c'è un problema culturale, perché è inutile che facciamo finta di non vederlo, per cui anche fuori dalla segnalazione attraverso estranei, nelle reti relazionali queste cose si sanno, ed è lì che uno si deve sentire motivato a interromperla, dicendo guarda che non puoi contare sul fatto che sto zitto. Questo è il punto. Questo è l'aspetto fondamentale, insomma, però quelle relazioni che non ci sono, a volte ci sono, a volte... A me ha colpito vedere di questo Mattia Di Teodoro che esatto. Per ore e ore diceva adesso la ammazzo, adesso la faccio finita, adesso di qui, e almeno questo si evince dalla cronaca, le risposte erano ma no, ma cosa dici, ma non fare stupidate, ma smettila di dire no... però non lo so, da qui possiamo, Garbarino, incolpare tra virgolette con cioè i numeri verdi non servono solo servono quelli per le donne per segnalare, sì. Mi chiedo se non servono dei numeri verdi anche per segnalare con urgenza questioni di questo tipo con un'imposizione tipo maschile, questo amici, lo dico proprio certo, beh, ci sono c'è la possibilità sicuramente, fondamentalmente è questa che state indicando, denunciare e però parallelamente ma la denuncia è efficace, è sempre efficace la denuncia, no, lo chiedo, non voglio dissuadere le persone da non denunciare, ci mancherebbe, ma chiedo, la denuncia con le leggi attuali, Garbarino, è efficace sempre al 100%? Ma diciamo è sempre più efficace, il problema si sente sempre di più, come lei sottolineava, sul piano culturale ci sono convenzioni internazionali, la convenzione di Istanbul in particolare, che ha favorito anche un cambiamento di legislazione interna, quindi ma io direi che sono sempre più efficaci perché i dati Istat lo dicono, insomma, e potrei dire che queste diminuzioni sono aumento delle violenze, diminuzione delle violenze fisiche, sessuali e da parte del partner appunto in particolare, dicono che queste leggi sono più efficaci, insomma, perché c'è una maggiore tendenza alla denuncia. E la denuncia, diciamo che l'ultima legge, la 119, ha previsto proprio il fatto che siano rafforzate le misure di protezione nei confronti delle vittime, e anche che la polizia possa fare un ammonimento proprio, sì, appunto a proposito dell'escalation, nel caso in cui ci siano lesioni lesioni gravi, minacce aggravate eccetera, la polizia può favorire l'allontanamento d'urgenza, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati, e in particolare con, in presenza di quei reati che sono cosiddetti i reati sentinella, percosse o lesioni, la polizia può fare un ammonimento alla persona e informarlo sull'esistenza di questi servizi di recupero. No, ma è chiaro, da lì poi può scattare insomma uno stop vero. Io sono convinto che avessimo chiesto agli ascoltatori, lo chiediamo nei prossimi giorni, ma voi lo denuncereste il vostro amico che inizia a dire io a me lo ammazzo? Registreremmo un bel po' di telefonate che ci direbbero: ma dai, ma come si fa? Lo sai per prima, come si fa a denunciare una cosa così? Ecco. Comunque ringraziamo Francesca Garbarino. Ce la facciamo, Carlo da Bologna? Abbiamo un minuto per chiudere, però, Carlo, gentilmente. Sì, un minuto è un po' poco, però mi sento sempre parlare di tasse. Leggo sul quotidiano le tasse che non crescono e solo un annuncio. Io faccio il commercialista, seguo solo aziende da 5 milioni a 80 milioni. Ho chiuso il conto imposte del 2015 e ho misurato qual è l'incidenza IRES più IRAP. Okay? Vi do testimonianza del fatto che la tassazione sul reddito d'impresa è calata di un bel po'. Eravamo nel 2010 stabilmente oltre il 40-45%. Le mie carte di lavoro sono qui. Io ho scritto due volte per email al quotidiano e a voi. Insomma, è tutto a disposizione. Sì. Adesso la tassazione è normalmente al 30-32%, quindi è calata. Carlo, risponda alla domanda: è calata nel suo settore? Sul totale delle entrate tributarie, secondo lei sono false? Invece, le cifre parlando, del MEF, io le sto parlando, ecco, e io le sto parlando del totale della pressione che invece il presidente del Consiglio dice che si stupisce. Parliamo di una cosa che è misurabile realmente oggi. Ma come è misurabile realmente oggi? Il totale delle entrate è misurabile certificato sui conti pubblici al trimestre, ma mica è solo il reddito d'impresa che conta, perdoni Carlo. Comunque vedete, ce l'abbiamo fatta in un minuto, anche se ci sarebbe tanto da dire ancora. Vi ringraziamo e ci fermiamo qui, grazie, a domani.